C'è sempre un motivo per festeggiare, c'è sempre un motivo per non lasciarsi andare. C'è il privilegio che si stia qui a raccontare una sensazione. È un bel motivo per essere felici, scrivere una canzone. Giorno se ne sta andando.